Grazie. Io desideravo fare un'osservazione che riguarda innanzitutto la relazione del professor Venturelli, ma potrebbe interessare anche quella del professor Sighirollo, perché in entrambi ho notato la tendenza ad assimilare la filosofia della religione con la filosofia della storia. Ora, sicuramente, in maniera diversa, poi eventualmente spiego perché, sicuramente tra filosofia della religione e filosofia della storia c'è una connessione, sono connesse, perché entrambi hanno come traguardo ultimo il sommo bene, la convergenza tra ordine morale e ordine fisico. Tuttavia vanno anche distinte, nettamente. Perché nella filosofia della religione, attraverso la teologia morale, questo traguardo è qualcosa di un fine intrinseco, immediato, nel senso di non essere mediato da altro, mentre la filosofia della storia il fine immediato è la cultura. La cultura intesa come piena spiegazione naturale predisposizione umana alla ragione, come si legge nella idea di uno Stato universale, oppure la cultura intesa come capacità di porsi fini in generale, ma fini in generale, indipendentemente dalla natura, come si legge nella Critica del Giudizio. Vero è che la cultura è una condizione a sua volta del perfezionamento, e in questo senso c'è una connessione tra filosofia della storia e filosofia della religione, del perfezionamento anche morale. Ma questo perfezionamento morale, finché rimaniamo all'interno della storia, è soltanto esteriore, è soltanto legale. Kant questo lo dice molto chiaramente nel saggio Se il genere umano proceda e sia in costante progresso verso il meglio. Dice chiaramente che la sapiente amministrazione degli istinti umani, anche del male, da parte della provvidenza natura, della natura provvidenza, porta soltanto ad ammazzarsi un po' meno, a rubare un po' meno, no? Anche a comportarsi bene per il timore, per guadagnare il rispetto dell'altro, cioè sempre ad una pura e semplice legalità. Che poi questa legalità favorisca a sua volta poi la moralità vera, questo è un altro discorso, ma tra questa legalità e la moralità c'è un iato, c'è un salto, cioè dalla storia non nasce la moralità può nascere soltanto quando c'è un momento di un'espressione di libertà interiore che è demandata completamente all'individuo e non a quella dinamica collettiva che ha la storia. Del resto, e concludo, in quei paragrafi della Critica del Giudizio sono stati nominati più volte stasera, seppur in contesti diversi, o l'82, l'83, l'83, l'84, io confondo sempre, quelli relativi comunque al fine ultimo della natura, cioè la cultura, fino all'ultimo, l'extras vex della natura, che è interno alla natura però, che è la cultura, e lo Endzweck, cioè lo scopo finale che è esterno alla natura, che è condizione, come? L'istruzione solita è lo scopo finale, Endzweck, che è invece la moralità, l'uomo come moralità, no? Ecco, in questi due paragrafi, all'interno di questi due paragrafi, Kant dedica anche una mezza pagina ad un riassunto della sua filosofia della storia. Ma dove la colloca? La colloca tutta nel primo paragrafo, cioè all'interno della cultura, anzi distinguendo poi all'interno della cultura, ancora tra cultura dell'abilità e cultura della disciplina, la storia va tutta ad appoggiarsi sulla cultura dell'abilità. Quindi questo per dire che l'ambito della storia è l'ambito dello spazio del tempo, l'ambito della fenomenicità, è l'ambito dell'antropologia. E quindi, ecco, questo, venendo all'obiezione, all'osservazione e veramente alla conclusione, sono d'accordo con Venturelli quando dice nel Massischer Anfang, nelle congetture, la teoria, la spiegazione kantiana del peccato originale è priva del senso di colpa. Però non condivido con lui il suo stupore di questo fatto, perché stupirsi di questo fatto vuol dire considerare la storia con gli occhi del filosofo della religione, anziché con quelli del filosofo della storia, che è un errore che in Kant secondo me non bisogna fare, anche se rimane valido il discorso che la filosofia della storia è in qualche modo un cerchio concentrico più piccolo all'interno di un cerchio concentrico più grande che è la filosofia della religione. Però tra i due cerchi c'è un salto che non si media senza un intervento della libertà umana, quindi senza l'uscita dai meccanismi della storia. Bene, grazie. Ruggerini. Cercherò di essere molto breve. Voglio dire rapidamente che sono molto d'accordo, per quanto ho capito, con la ricostruzione che ha fatto il padre Sala della vicenda dei tentativi di dimostrazione dell'esistenza di Dio, e quindi riguardo a questa prima relazione non posso che esprimere il mio grande apprezzamento, direi in particolare per la puntualità e per il grande equilibrio. Ho trovato proprio un intervento illuminante. La cosa poi che a me interessa particolarmente è che cosa allora ne segua, se le cose stanno nei termini ricostruiti, con quelle ambiguità che sono state, o incertezze insomma, che sono state sottolineate nei vari movimenti, in particolare poi riguardo alla prova, diciamo così, di ordine morale, dal relatore, che cosa ne segue per la dinamica complessiva del pensiero kantiano. È stato il punto su cui ho cercato, sia pure frettolosamente, questa mattina di portare l'accento. Dopo vengo a una questione che hanno toccato sia Sichirollo che Venturelli brevemente. Allora, per quanto riguarda e che mi tocca in qualche modo, e qui allora mi limiterei a una precisazione, servendomi proprio di Weil, Rick Weil o Weil, come si debba leggere. Come si leggeva lui? Come si pronunciava? Weil? En français? Weil. Allora, voglio ricordare che proprio Weil parla senz'altro dell'absence du mal dans les écrits antérieurs à la religion, pagina 148 del suo saggio. Il punto mi ha interessato in termini di ricostruzione, di proprio precisione, e quindi mi sono fornito di queste citazioni che propongo volentieri. E pagina 150, allora 148, absence du mal, tout court. Pagina 150. Al radical. Vi è quindi nel svolgimento del bel saggio su cui Sichirollo ha svolto la sua relazione, questo momento lo richiamo all'attenzione anche di Venturelli, perché secondo me tu hai ragione di sottolineare che presagi, tracce eccetera si possono trovare anche prima, per non dire della appunto ripetutamente citata lettera all'Avatar dell'aprile del 75. Non solo sull'autorità di Weil, ma per quanto comprendo, mi pare che nello scritto della religione intervenga questo sforzo proprio di fondazione, vorrei dire, con tutte le virgolette del caso, del problema del male, che viene trasferito allora a questo livello, diciamo così, puramente intelligibile, cosa di cui non mi pare che il cenno che tu trai dalla ragion pratica fornisca un sufficiente argomento. Dunque, direi che Kant sembra aver avuto presente, almeno dal 75, questa problematica. Mi pare che non si possa disconoscere per questo la novità rappresentata dalle riflessioni sulla religione, in particolare da questo primo saggio. Io su questo non sento che sia possibile più che questo tentativo di precisazione, dopodiché ritengo che sia impossibile arrivare a definizioni. Mi pare che anche Weil, appunto, come risulta dalla duplice citazione che ho fatto, tenti di mettere assieme una messa a punto che non è semplice. Vengo poi alla questione che mi pone Sichirollo, una che mi sembra secondaria e una che mi interessa di più, ma io il mio intervento a questo punto lo potrei risolvere pregando Sichirollo di mandarmi, mi pare che hai fatto un'offerta gentile all'uditorio, di mandarmi quelle pagine che pubblicherai su Belfagor, perché così mi documenterò meglio, nel senso che il procedimento così molto aforistico e nitido della tua, delle tue puntualizzazioni, sì, mi ha posto dei problemi, ma ripeto, gradirei poter vederne un'argomentazione che mi consentisse di capire meglio come prendere posizione, se consentire, se dissentire. E comunque, quando tu dici che Weil contesta ad Heidegger, quindi non a me, il problema della filosofia kantiana come filosofia della finitezza, ecco, io credo che qui la questione sia un tantino complicata. Certamente che questa sia la grande, io ritengo, indicazione di Heidegger di leggere in Kant un pensiero della finitezza, a me sembra che abbia buoni argomenti, ma io stesso l'ho accennato stamattina e ho avuto occasione altrove di scriverne e di parlarne. Ritengo che la trattazione heideggeriana della problematica della finitezza in Kant sia largamente insufficiente, perché tende ad essere limitata alla problematica della recettività a livello conoscitivo. E allora ho l'impressione che Weil contesti questa riduzione alla sensibilità, in qualche modo, della problematica, all'esperienza sensibile della problematica, laddove, proprio stamattina se ne parlava. Quello che a me sembra interessante è intanto che tu stesso poi hai ripetutamente richiamato questa congiunzione nella attribuzione all'uomo della ragionevolezza e della finitezza. Allora, questo per me è il problema. È questo per me il problema ed è questo l'aspetto che mi interessa. Poiché appunto a livello di ragione, Marcucci per esempio stamattina richiamava la discorsività della ragione, e io richiamerei il fatto, e questo manca totalmente in Heidegger, che la dialettica trascendentale, per non dire poi l'analitica su cui sarebbe da ragionare, ma la dialettica trascendentale è fondamentalmente una dialettica dell'apparenza, dell'illusione naturale della ragione, dei paralogismi della ragione, delle antinomie della ragione, dell'impossibilità della ragione di venire ad un'affermazione categorica sia che esiste sia che non esiste. Ora, a me questa sembra una illustrazione sovrabbondante. Io la considero per me illuminante, può darsi che io sia facile alle suggestioni, per me illuminante di ciò che dal mio punto di vista, quindi Heidegger e Weil per me se la vedono tra di loro in paradiso, su questa terra mi è utile ragionare con te, trovo qui, ripeto, una argomentazione, un'analisi, diciamo così, importante e illuminante nella prospettiva anche di una ripresa delle tematiche kantiane nella direzione appunto di un pensiero della finitezza. Dopodiché ribadisco quello che già dicevo stamattina, io sono partito dall'assunto nella mia relazione e comunque ne sono profondamente convinto che Kant non sia riducibile ad un dirizzone del tipo in Kant non c'è altro che la finitezza, non l'ho mai detto, credo non l'abbia mai detto Heidegger, ove l'avesse detto sarebbe un motivo per dire se la veda lui. Ultimo punto che dicevo, questo insomma è una questione di messa a punto, mi saranno molto utili le tue pagine. Ultimo punto, quello che mi sembra più delicato, tu hai detto, se ho ben capito, che c'è un vedere della ragione in Kant, ho capito bene? Ecco, io qui resto un tantino scettico e se tu mi potessi illuminare meglio sarei contento. In particolare per quanto riguarda il problema del male, citavo criticamente quel passo di Weil questa mattina e ribadisco le mie riserve. Io non capisco cosa voglia dire vedere il male. È vero che Kant introduce in modo sbrigativo la questione in questi termini, ma che cos'è vedere il male? Le guerre? Stamattina giustamente Hinske diceva, ma cari signori, a livello di scienze empiriche si può spiegare tutto. Allora, Lorenz scrive il cosiddetto male. E i polemologi spiegano le ragioni biologiche, sociali, eccetera, delle guerre. Il male in sé, chi lo vede? Dio. Che qualcosa è assolutamente male? Dio. Kant, è tanto vero quello che dico io, che Kant ha bisogno, e ritorno allora al mio punto di partenza, ha bisogno di una fondazione del male radicale. Kant non si limita a dire ma sì, il male c'è nel mondo, no, dunque questo rimanda ad una radice del male misteriosa, unerforschlich, lo hai ricordato anche tu, inindagabile, che dice che la questione del male non si risolve per Kant, a me pare, se una cosa sta con l'altra, non si risolve in termini di puro vedere. Dunque io conserverei tutte le mie perplessità se questa è stata la tua intenzione, ma adesso a me proprio sinceramente polemizzare non interessa, mentre mi interessa la messa a punto ove è possibile. Quello che io non riesco a condividere è l'idea, se mai ci fosse, ove mai ci fosse, di una evidenza del male. Ecco, questo mi pare che all'intelletto finito dell'uomo non è concesso. E allora il mio problema questa mattina è quello che a me pare il problema, anche se poi si arrivasse a dire che Kant proprio intendeva questo, rimarrei molto stupito, direi che quelle non sono le pagine più felici di Kant. Anche se Kant intendeva questo, mi pare che lo sforzo suo di arrivare ad una radice a livello intelligibile, quindi fenomenicamente non accertabile, della tendenza al male, ciò di cui parla, perché è chiaro che non si tratta solo di dire nel mondo accadono delle cose che possiamo considerare, ma si tratta di trovarne una radice che è la versione, diciamo, razionale del peccato originale. E questo è il punto che a me, ripeto, pare scoraggiare qualsiasi evidenzialismo e domandare invece una interrogazione ulteriore, che è quella che cercavo di svolgere, certamente in modo inadeguato, nella direzione di dire, qui per Kant si ripropone in sostanza, in termini nuovi rispetto alla ragion pratica, l'enigma della libertà, che per Kant è già in quanto tale inindagabile. Ma qui la libertà appare, io dicevo, se la cosa può sembrare enfatica la si può anche mitigare, ma insomma la libertà appare come potere di perdizione. E questa è una novità che mi pare, e qui ritorno all'amico Venturelli, non, almeno io, ma si può sempre migliorare la lettura, guarda che poi mi risponderai. Certo, certo, tieni. Io faccio sempre fatica a ripetere il nastro, perché è certamente inciso, ma non ho la chiavetta per... E che cosa ti turbava? C'è qui tutta una problematica della ripetizione che è di straordinario interesse fenomenologico. E c'è la problematica del tempo. Allora, scusa... Vuoi venire? Se è breve, ma se è una cosa breve, fallo. Poi abbiamo un quarto d'ora, diamo 5 minuti a ciascun relatore. Prego. Alle 7:15 mi ha detto Nesto. Ma sì, ma è meglio che rispondano. No, ma dai, ma perché abbiamo te? Rispondono veramente. Io sono perché allora, tu parli. Poi c'è la limitazione. Tanto tocco cose a modo mio, evidentemente, ma che sono già emerse variamente, sia nell'intervento di Mori, sia in quello di Ruggenini. Quindi è inevitabile un effetto di déjà vu, anche se io vorrei dire le cose a modo mio, sia rispetto al tema del male radicale, che dunque si rivolge, guarda caso, sia a Venturelli sia a Sicchirollo, perché ne hanno parlato, non perché ne siano un'incarnazione, e sia a proposito della relazione Sala. A proposito del tema male radicale, cercando di fare le cose in modo telegrafico. Dunque, già dicevo all'amico Venturelli a voce prima che mi lascia perplesso il ritrovamento del tema del male radicale in quella propensione di cui si parla nella ragion pratica. E spiegavo le ragioni nel modo seguente, perché a differenza della ragion pratica, lì si parla di questa propensione, ma si prescinde completamente dal fatto se questa propensione ci sia o non ci sia. Ci può essere, ma potrebbe anche non esserci. Mi replicava Venturelli, sì, ma la propensione è per natura una potenzialità. Certo che è una potenzialità, però quello che fa lo specifico della teoria del male radicale, così come viene delineata nel primo saggio, è che questa propensione è una propensione reale, cioè una propensione esistente realmente. Da questo punto di vista allora vengo a Sicchirollo, secondo passo, ha ragione Sicchirollo, secondo me, ben inteso, non è che tu abbia bisogno che io ti dia ragione, ma insomma mi persuade quando si richiama persino alla lettera all'Afater che è stata variamente menzionata, perché il carattere unüberwindlich di cui è caratterizzato lì la tendenza al male dimostra che invece questo è realmente presente. direi inevitabilmente presente, quindi c'è questo aspetto di realtà che viene sottolineato, che è un di più che fa la specificità della cosa. Basta questo? Secondo me non basta nemmeno, e di nuovo allora vedrei che la relazione di Venturelli integra il tema, perché non è soltanto il fatto che sia reale nel senso di invincibile, ma c'è il problema dell'origine di questa propensione, e questo problema dell'origine è invece tematizzato solo nella religione, con delle cose poi stranissime e a mio giudizio illeggibili. Avrei amato chiedere il parere del collega Malter, di cui ho qui appresso l'edizione, non ultimo pregio della quale è di essere facilmente trasportabile. Al professor Sala, molto rapidamente, quindi in un modo che fa decisamente ingiusto nei confronti del rigore articolato della sua relazione, ecco, quando però egli conclude dicendo, e nella versione detta questo è ancora stato più evidente che nell'assunto scritto, dicendo dunque in conclusione la religione si riduce a morale, mi sembra un po', ecco, questo insistere sulla riduzione della religione a morale, per un verso è ovvio, per un verso direi persino tautologico, per un verso mi sembra riduttivo. In che senso? Certo, significa lasciar cadere tutta una serie di cose che precedentemente Kant, a cui precedentemente Kant aveva pensato e che ormai vengono abbandonate, da questo punto di vista senz'altro, ma non nel senso che chiamare la morale con il predicato di religione significhi dire qualche cosa di inutile e che non analizza ciò che è appunto necessaria conseguenza della morale. Voglio dire, certo che la religione è osservanza dei doveri, la religione della buona condotta, quindi l'osservanza dei doveri che l'uomo ha verso l'altro uomo. Però è anche considerare questi doveri come comandamento divino. Allora, questo considerare als è un considerare che Kant ritenga puramente superfluo o persino fittizio? Ecco, questo non lo direi proprio, non direi proprio che sia il caso dello scritto sulla religione. Questo considerare als è un considerare, come dire, molto realistico, se mi si passi il termine. E allora verrei a un'osservazione di Sicchirollo quando diceva che altra cosa che mancava, per lui era la sola, per me un'altra cosa che manca nella lettera all'Alfer è la teoria della comunità etica, dove il fondatore non è un fondatore più o meno fittizio, ma è un fondatore per così dire reale. Bene, noi dobbiamo chiudere entro le 7:15. Cominciamo dal professor Sala, mi dispiace. Perché facciamo rispondere i predatori, se li stati chiamati tutti in causa, dal primo al secondo. Molto brevemente. Dunque, al professor Ruggenini risponderei questo. Che cosa ne segue da questo Pendelbewegung di Kant? Sì, direi che segue questo. Che lui avrebbe dovuto, a me sembra, rivedere i principi della sua morale, rivedere in particolare il formalismo e appunto l'autonomia assoluta. E a questo non era disposto. E questa è la mia risposta. Quindi rimane, sì. Al professor Olivetti risponderei, dunque, la religione appunto, die Erkenntnis aller unserer Pflichten als göttlicher Gebote. Io non voglio certo prendere la posizione di Feinger, così ficzionalismo su queste cose, però che appunto, in parecchi casi questo considerarli come comandi di Dio, sì, senza andare nell'eccesso del ficzionalismo, però insomma è qualche cosa che ci è utile e rinforza così psicologicamente la nostra volontà di eseguire i nostri doveri, ma direi che questo insomma è una funzione, se vuoi, in più a favore della morale, ma appunto a favore della morale, quello che rimane è la morale, mi sembra. Venturente. Sì. Adesso vediamo se riusciamo a farci in qualche maniera capire un pochino meglio, perché... Beh, allora andiamo un pochino anche a caso, spero, di la filosofia della storia. Il fine della filosofia della storia è la cultura, dice Massimo Mori, rintracciando questa prospettiva all'interno dell'opera di Kant. Quindi ci sarebbe una certa incomprensione da parte mia, nel senso di una confusione tra piani che sono filosofia della storia da un lato, filosofia della religione dall'altro. Il fine della filosofia della storia è molto problematico dal mio punto di vista, al di là del fatto di quello che possiamo ritrovare nel testo kantiano, che sia la cultura. Perché? Anche prendendo semplicemente alcuni passi di Kant, credo che se ne potrebbero trovare moltissimi, ci si dice proprio in un ambito di filosofia della storia, ad esempio, che noi siamo in un'epoca, noi ancora, non solo Kant, che è estremamente acculturata, civilizzata, e tuttavia non è ancora affatto moralizzata, e tuttavia deve ancora andare verso questo cammino, eccetera. Quindi, insomma, le cose sono assai dubbie. Al di là, voglio dire, no? Quindi la storia stessa sembra procedere in un certo senso che è passaggio dalla natura alla cultura, dalla cultura alla moralità. C'è questo. Cioè, insomma. O no, forse. Perché filosofia della storia, poi la filosofia della storia non si connette in Kant al tema dell'escatologia. Scatologia della fine ultima di tutte le cose presuppone proprio la fine della storia in qualche modo, anche se mi darai una rappresentazione simbolica, ma è proprio il fatto che sia una rappresentazione simbolica che mi lascia, fa sorgere in me tutti i problemi. Che cosa me ne faccio delle rappresentazioni simboliche se si tratta di salvezza? Vado a predicare la salvezza dicendo una rappresentazione simbolica? E questo è il mio problema, non è il fatto, è un fatto di questo genere, che mi tormenta in qualche modo. La storia non è il nostro progetto. Che diavolo è la storia? L'insieme dei nostri progetti che collidono, per cui viene sempre fuori qualche cosa che nessuno di noi ha voluto, magari è sempre diverso, eccetera. E tuttavia tutti questi credono che sia guidata da un filo. Che sia guidata da un filo, lo chiamano provvidenza. Chiamiamolo in un altro modo, chiamatelo come volete. Non c'ha a che fare però questo filo con la storia. La storia è una cosa che non ha a che fare con tutto questo. Cioè, a me pare veramente un po'... Allora, io sono per un lato un essere culturale, per un'altra parte sono un essere morale. In un certo senso sono storico. E cioè, ma so bene poi l'altro problema. La moralità non nasce dalla storia ma dall'individuo. Ma se si è capito il contrario, mi dispiace. Tutto quello che speravo si capisse era... che l'individuo è il centro non solo dell'azione morale, ma molto spesso per lo più immorale, perché è dubbio che ci sia un solo uomo, dice Kant, che abbia mai compiuto un'azione morale. Ma in ogni caso noi dobbiamo prenderlo così. L'individuo è l'origine dell'azione morale, ma l'individuo è anche l'origine di ogni possibile storicità. Non c'è da nessun'altra parte la storia se non in questa radice. Non posso separare le cose così. E se in qualche passo Kant le separa per fini, non so per quali fini, o per scolastici, o per... non sarei d'accordo con Kant, ecco tutto. Non saprei che cos'altro dirvi, non sarei d'accordo con Kant. L'assenza del male radicale, ma io quando ho detto questa cosa qua, proponendo un passo della critica della ragione pratica, l'ho detto sapendo di andare contro tutto quello che è stato detto, cioè assenza del male radicale. L'ho detto perché ho incontrato un passo, se volete lo leggo tutto perché non l'ho letto tutto, ecco, e quindi non lo faccio, però sarà negli atti, quindi tutti potremmo andare per vedere, può darsi che non stia in piedi, non dico mica, però io dubito anche del contrario, e l'ho detto proprio per dire, vediamo un pochino se per caso non ci sia lì sia Olivetti che Ruggenini mi hanno fatto delle obiezioni che sono serie e che considererò attentamente. Però quando anche io ho parlato con Olivetti di possibilità riguardo al tema del male radicale, questa propensio come peccatum in potentia, e quindi possibilità, ma possibilità non voglio mica dire possibilità logica, io intendo possibilità Möglichkeit existenzielle, cioè è questo che ho nella testa, in questo senso il male radicale è possibilità esistenziale, in questo senso lo intendo, non, però devo riconsiderare la cosa, vedrò se mi sta in piedi se non sta in piedi. L'altra cosa, adesso poi magari qualcuno la dimentico, ma ecco, che volevo precisare, ciò che è unerforschbar non è che sia tutto chiaro se sia unerforschbar il male radicale. Unerforschbar è la Ursprung, da dove? Perché poi del male radicale Kant dice tante cose che sono in qualche modo, ci dice è questa Umkehrung, è questo capovolgimento, è questa inversione, in questo senso non è mica unerforschbar. In questo senso noi ci approssimiamo a ciò che è il male radicale, ma quello che è unerforschbar è la Ursprung, perché noi non sappiamo da dove diavolo venga, perché? Perché il male radicale, qui aveva fatto un accenno questa mattina Inske, e c'è stranamente anche nel testo di quello poi che non ho letto, perché il male radicale è connesso in modo essenziale alla libertà, e la libertà che è unerforschbar nella sua Ursprung. Allora è questo che è il mistero, se vuoi. Ecco, altre cose ce ne sono, ma... Bene, allora forse possiamo dare per 2 minuti la parola a Sigirollo. 3, 4, non credo ne abbia più di 2. No, beh, stasera per me tutto si svolge sulla cosa dello schematismo, quindi continuo a Mori. Beh, devo dire soltanto che, vabbè, in quella conclusione io però non ho messo filosofia della storia uguale filosofia della religione. Dicevo che uno dei risultati era che si aprivano i problemi e della filosofia della storia e della filosofia della religione su piani evidentemente differenti. E a Rogenini, certo, qui potremmo ricominciare tutto da capo con le obiezioni, sia pure lui dice marginali, che ha fatto Rogenini. Allora, intanto togliamo un equivoco. La questione del Kant di Heidegger che si limiterebbe alla finitezza, sì, ho fatto un pasticcio perché prima di venire qui ho corretto le bozze di un saggio di Kircher, che è quell'allievo di Weil che ha adesso il posto di Weil a Lille e che ha scritto 2 volumi su Weil, ha fatto una conferenza che viene pubblicata su Studi Rubinati, che è proprio l'interpretazione di Kant in Krüger, in Heidegger, Krüger e Weil. E allora lì ho fatto un po', quindi non so bene chi dei due attribuisce a Heidegger di essersi limitato al problema della finitezza, ma credo Krüger perché mi pare che Weil non si era chi lo sappia non si era pronunciato su questa cosa. Il punto Beh, mi pare che qui possiamo, io posso praticamente non dire nulla dopo quello che ha detto sul, per chiudere... Questa questione del vedere, che ti pare vedere il mare, sì, un momento, sembrava un momento. Di peso. Sì. No, dico che ci sia, mi sembra che il dibattito e le cose che parecchi di noi hanno detto e che è forse un minimo di contributo all'interpretazione del testo, è questa, come dire, questo essere in contrappunto il male radicale e la libertà. D'altra parte il passo di Kant è chiaro, è la religione, parte seconda, all'inizio nota 1. Il male non si trova nell'inclinazione ma nella massima perversa, quindi nella libertà. Quindi naturalmente non possiamo metterci a quest'ora a ridiscutere e ad aprire la cosa. Vede, insomma, se vede, vede, è un po' difficile spiegare come e perché vede. Che Kant adoperi questo verbo non c'è dubbio, in questo momento non mi ricordo a memoria, comunque l'ho riaperto pochi giorni fa, è una nota del cosa significa orientarsi nel pensare, ma ricordo di aver visto più volte anche adesso in questi lessici di cui possiamo, di questi, sì, di cui possiamo disporre, che le metafore del vedere in Kant sono molto più frequenti di quanto noi possiamo immaginare, che di solito ci sfuggono a una lettura. Vabbè, mi dispiace, tu hai detto un sacco di cose in più e ne parleremo, oppure avremo un'altra occasione per... Continueremo.